I cinesi mettevano delle piantine per coltivare il pan di zucchero. Nel cortile c'è un piccolo pozzo molto decadente, sulla scala delle scarpe abbandonate, piccole, consunte come un segno di vita sconfitta. A fianco un pollaio, sul retro una porticina. La piccola cinese morta nel casolare del lavoro nero, questa tragedia delle Marche, raccontata da Pierangelo Sapegno, ma raccontata da diversi giornali, davvero, davvero molto, molto duro come racconto, il racconto che ha visto coinvolta questa undicenne cinese. Voglio concludere fermandomi qui, ricordando però il sondaggio di oggi, che tra l'altro trovate anche con tantissimi articoli all'interno dei giornali, dal Corriere al Messaggero, Repubblica, la nuova campagna di Brunetta, che dice nei titoli di coda e di testa, insomma in tutti i programmi della RAI, voglio che vengano pubblicati i compensi dei conduttori. C'è già ovviamente tutte le foto, Bruno Vespa con il suo 1.200.000 euro, Michele Santoro con i suoi 684.000, c'è chi dice va bene, c'è chi diceva male. Lucia Annunziata, che è stato presente alla RAI, dice l'idea è geniale, ne scopriremo delle belle. C'è chi dice no, assolutamente, così si favorisce Mediaset, che invece loro non lo devono fare. Per esempio Massimo Giletti dice Mediaset sarà felice. Carlo Conti dice diciamo quanto rende un programma oltre quanto costa il conduttore. Che ne pensate? Giusto pubblicare nei titoli di coda i compensi dei conduttori giornalisti RAI? Siamo qui alle 8 e 17 minuti, abbiamo trovato anche una cuffia per Deborah Rosciani e dunque siamo pronti per l'economia. Soldi e dintorni. Oggi è stato un parto lento e doloroso. Doloroso, plurigemellare o... No, trovarti una cuffia, insomma. Guarda, cioè io lo so che armeggi, sembra incredibile da un che... quarto d'ora. Lo so, sei tu che boicotti il mio spazio economico. Parliamoci chiaro. Siamo al complottone, altro che il complottone politico. Il complottone delle cuffie a Deborah. No, è perché io lo so, perché sono una ex conduttrice televisiva. Quanto guadagni? Guadagnavo. Quanto guadagni? No, sempre poco. Oggi vi faremo ascoltare il ministro Brunetta, alcuni file che abbiamo recuperato, non è che sarà nostro ospite, però quanto guadagni, chiede a tutti i giornalisti. Il suo incubo, lo so, adesso abbiamo trovato incubo, un'altra categoria contro cui scagliarsi. Va bene, di che parliamo oggi? Invece noi parliamo ancora una volta di credito e debiti delle famiglie italiane. Allora, il tema è un tema di quelli che monitoriamo più attentamente e abbiamo cominciato proprio su questo argomento anche lunedì scorso a Salvadanaio, lo ricorderete, parlando della denuncia, chiamiamola così, che è stata fatta da Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, alla Camera dei Deputati, parlando di tassi medi sui prestiti troppo alti nel nostro paese rispetto alla media europea. Poi abbiamo avuto un'altra indagine, quella di Assofin, che è l'organismo che rappresenta le società finanziarie che naturalmente erogano mutui e prestiti. Secondo l'ultima rilevazione, quella dei primi 8 mesi di quest'anno, il credito al consumo in Italia è sceso dell'11,8% a 37 miliardi di euro e anche questo denota la crisi dei consumi, la crisi di molte famiglie che naturalmente hanno visto in questi ultimi mesi una riduzione del proprio reddito, di conseguenza non possono neanche permettersi di chiedere un prestito. Oggi a tutto questo aggiungiamo un nuovo monitoraggio, quello che viene presentato oggi a Roma dall'Osservatorio regionale del costo sul credito, promosso da Caritas Italiana e dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica. Questo monitoraggio rileva che un italiano su 4 è a rischio di povertà il prossimo anno e qui stiamo parlando particolar modo di quelle famiglie che sono orientate a comprare casa e che di conseguenza vedranno mutare anche la propria condizione economica. Allora, come nasce questa proiezione e soprattutto come possiamo fare in modo che magari questa percentuale non si concretizzi? Sentiamo le iniziative che oggi verranno proposte. Buongiorno a Mario Crosta, direttore generale di Banca Etica. Buongiorno a voi. Dottor Crosta, peraltro Banca Etica, quella banca che negli ultimi mesi ha fatto parecchio parlare di sé nell'ultimo anno per tante iniziative, ma anche perché quella banca che sostanzialmente si rifiuta di raccogliere i capitali raccolti con lo scudo fiscale, se non sbaglio. Sì, noi facciamo della trasparenza e della completa tracciabilità del percorso del denaro i nostri punti fondamentali, per cui di fronte ad un'operazione appunto quale quella dello scudo fiscale e i cui soldi non sono di provenienza certa, abbiamo preferito rinunciare ad accogliere dei depositi, però mantenere fede al nostro DNA che per l'appunto fa della trasparenza il proprio cardine. Andiamo all'osservatorio che presentate questa mattina a Roma e allora dicevamo, secondo le proiezioni e secondo l'indagine che avete effettuato, il 25% delle famiglie italiane che il prossimo anno acquisterà casa, quindi un italiano su quattro, si troverà in condizioni di difficoltà. Come siete arrivati a questo risultato? Io l'ho sintetizzato in maniera sicuramente estrema, voi avete invece un'indagine supportata appunto da dati molto più concreti. Certo, c'è un'indagine che mette in relazione il reddito delle famiglie assieme al costo del credito, al costo dell'accesso al credito, e le famiglie poi sono settorizzate, sono divise in base a dei criteri sociologici, quanti componenti, quanto reddito, per cui sulla base di tutti questi elementi c'è un parametro che è il confronto, che è l'indicatore tra la rata, quanto si paga di rata, e il reddito disponibile, che porta ad un indicatore sintetico che è per l'appunto quanto sia sopportabile oggi un finanziamento acceso per l'acquisto della casa. Messo assieme con tassi di interesse che rispetto alla media europea sono un po' più elevati in Italia, assieme ai dati della crisi economica che portano ad una contrazione del reddito disponibile, ecco, questo porta al grido di allarme che molte famiglie, per l'appunto una famiglia su quattro, potrebbe trovarsi a rischio nel sostenere il costo del credito acceso per l'acquisto della casa. Voi ovviamente avete eseguito anche un monitoraggio di tipo regionale, d'altronde l'indagine si chiama proprio Osservatorio Regionale, un osservatorio che si sta muovendo sul territorio proprio per fare il rilievo di questi dati da almeno un anno. Sulla base regionale, che cosa avete scoperto? Quali sono le regioni che potenzialmente potranno essere maggiormente in difficoltà, dottor Crosta? Sì, paradossalmente le regioni che potranno riscontrarsi le maggiori difficoltà sono le regioni con anche un grado di ricchezza più elevato, cito il Trentino, cito ad esempio il Veneto, la Toscana, la Liguria, e questo si spiega con il fatto che in queste regioni c'è una percentuale di proprietari di prime case più elevata rispetto alle altre regioni, per cui sono regioni dove potranno manifestarsi particolari segnali di difficoltà proprio in conseguenza di questo motivo. È evidente che molto dipenderà dall'evoluzione della situazione economica, perché c'è molta cassa integrazione, c'è molto lavoro precario, per cui ecco, questo osservatorio tiene in considerazione anche l'evoluzione proiettando su due scenari in base a come evolverà la situazione economica. Allora, dicevo, oggi a Roma presentate l'osservatorio regionale del costo sul credito insieme ad un seminario che seguirà questa iniziativa, appunto dare un futuro al credito. Io proprio sul futuro punto l'attenzione perché, come lei sa, dottor Crosta, di monitoraggi ne abbiamo piene le tasche, ne abbiamo tanti, le famiglie si aspettano non solo di essere analizzate e monitorate, ma di essere anche sostenute in questa fase che è economicamente difficile e probabilmente nel 2010 ci sarà ancora qualche difficoltà in più, anche se stiamo tentando in tutti i modi di lasciarci questa crisi alle spalle. E allora, voi oggi che proposte concrete farete? Quali sono le iniziative di sostegno al credito che volete promuovere, che giudicate realmente utili, anche perché so che partite dal presupposto che la possibilità di avere un'abitazione dignitosa è un diritto di tutti? Certo, ci sono sostanzialmente tre cose da fare. Da un lato, proprio per affermare che la casa è un diritto, servono delle politiche fiscali, delle politiche economiche governative che siano a sostegno della casa, quindi un sostegno forte da parte del governo in questo senso. La seconda cosa è appunto il lavoro che bisogna fare come banche. Come Banca Etica noi abbiamo permesso alle persone, prima ancora che ci fosse l'accordo con l'ABI per quanto riguarda riguarda le famiglie, l'accesso al credito delle famiglie, abbiamo permesso una moratoria che può arrivare fino ai 18 mesi. Ci sono situazioni di difficoltà contingenti, congiunturali, le persone devono essere sostenute e a volte anche dilazionare il credito può aiutare. La terza è comunque, unitamente allo spostare in avanti il pagamento delle rate del mutuo, servono degli strumenti che siano che vadano a facilitare l'accesso al credito. E quali sono questi strumenti? Sono ad esempio la costituzione di fondi di garanzia che permettano alle famiglie un accesso più agevolato al credito. La terza questione è agevolare anche con delle iniziative che mettano assieme pubblico e privato, agevolare delle iniziative di social housing, quindi l'autocostruzione, tutta una serie di iniziative che permettono anche di avere un costo dell'abitazione che sia il più basso possibile. E dal punto di vista della famiglia, dottor Crosta, perché abbiamo appreso anche in questi anni quante famiglie abbiano voluto comunque indebitarsi, non dico a tutti i costi, ma comunque correndo anche dei rischi più elevati rispetto alla propria condizione economica, ecco, quali iniziative anche nei confronti della famiglia per una maggiore educazione finanziaria su questi argomenti? Sì, nei confronti della famiglia noi abbiamo tutto un piano di educazione finanziaria, peraltro anche l'ABI si sta molto muovendo su questo contesto, perché è molto facile in queste situazioni che le famiglie, che i soggetti che hanno minori elementi di conoscenza dei mercati finanziari a disposizione ricorrano a delle forme di indebitamento che portano al sovraindebitamento. Questo poi potrebbe rappresentare la soglia per arrivare anche a fenomeni molto poco piacevoli quali l'usura. No, perché visto che avete già, come dire, previsto che il 25% delle famiglie italiane potenzialmente in procinto di acquistare casa si troverà in difficoltà, magari queste sono famiglie che vanno scoraggiate o comunque che vanno educate all'accesso al credito. Ma difatti deriva proprio da questo la collaborazione con Caritas, che è un'organizzazione molto presente nel territorio, alla quale si rivolgono spesso anche le famiglie che si trovano in difficoltà. Allora, dare questa indicazione è che, ecco, un elevato ricorso al credito porta poi ad un sovraindebitamento, all'incapacità, all'impossibilità da parte delle famiglie di pagare, per cui serve contenere sicuramente l'accesso al credito. Dottor Crosta, io devo salutarla perché abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, sto rubando anche dei secondi ad Alessandro Milan, però tornerò sicuramente a sentirla su questi argomenti, magari dopo la presentazione del vostro rapporto di oggi. Intanto buona giornata. Benissimo, grazie a presto, a voi, grazie molte. Alessandro, invece noi andiamo un po' ad esplorare oggi a Salvadanaio cosa faranno le famiglie italiane in vista del Natale, che consumi. Che tipo di consumi faranno? Alle 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Rimangono i toni accesi dopo il fuori onda in cui il presidente della Camera Fini parlava di Berlusconi. Fini è fuori dalla linea del PDL, ha detto in sostanza il ministro dello sviluppo economico Scajola, ma il presidente della Camera insiste: rispettate le mie opinioni. Andiamo ora in provincia di Varese, a Bustarsizio, dove avete sentito la notizia di poco fa. C'è stata un'esplosione che avrebbe distrutto una palazzina in una frazione appunto della città. I vigili del fuoco sono all'opera. Secondo le prime notizie ci sarebbero alcune persone, il numero è imprecisato, sotto le macerie. E infine per il calcio, la Lazio ha perso 2-1 a Salisburgo ed è fuori dall'Europa League. Il Genoa invece pareggia 0-0 a Praga contro lo Slavia. Si giocherà la qualificazione nell'ultima sfida col Valencia. Stasera tocca alla Roma, in programma Roma-Basilea. E allora, siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi, gli stipendi della RAI. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Il ministro Brunetta vuole vederci chiaro, ha detto: devono essere pubblicati i compensi dei conduttori e giornalisti RAI di ogni trasmissione, nei titoli di testa e nei titoli di coda, perché la gente deve sapere, la gente deve così poter decidere. Ieri Brunetta l'ha rilanciata questa proposta, lo vogliamo sentire, era RAI 3, sentiamolo. Io sto portando avanti una cosa che riguarda anche voi, di pubblicare nelle titoli di testa e titoli di coda, in tutte le trasmissioni RAI, i compensi dei conduttori, i compensi dei giornalisti, a prescindere ovviamente dall'audience, nel senso che non è giusto che un giornalista che fa benissimo la trasmissione, che ha poca audience, sia pagato banalmente, e uno che ha magari un po' meno bravo, che ha grande audience, sia pagato in maniera milionaria. Perché questo vuol dire dare il giudizio nelle mani dei cittadini. Il giudizio nelle mani dei cittadini. Per ora il 70% di voi dice siamo d'accordo col ministro Brunetta. Voglio salutare l'onorevole Roberto Zaccaria, buongiorno. Buongiorno. Del Partito Democratico, è stato presidente della RAI. Che ne pensa? Ma dunque, diciamo tempesta in un bicchiere d'acqua, cioè così chiariamo la dimensione, cioè due anni fa, quando Visco, ministro delle finanze, si occupava di questo tema, propose, anzi diciamo quasi realizzarono, una pubblicazione su internet dei compensi di tutti i cittadini italiani. Se lo ricorda, vero? Sì, più che dei compensi, forse ricordo lo scandalo. I redditi, certo. Allora, io trovo che allora quella cosa si fermò perché la privacy disse, l'autorità della privacy sollevò dei problemi, almeno sulle modalità. Allora, io penso in linea di principio che non ci sarebbe niente di male che fossero conosciuti i redditi di tutti noi, no? Perché naturalmente questo, siccome la dichiarazione si fa allo Stato, è pubblica, quindi questo secondo me è il principio. Quello che propone Brunetta è doppiamente sbagliato, lo dico perché è molto semplice. Uno, perché nei titoli di coda di testa si danno delle altre informazioni, cioè come se lei andasse al cinema e poi alla fine nei credits lei dovesse leggere quanto guadagna le attrici, la Sharon Stone, la Meryl Streep. Lei guarda che ruolo fa, è uno strumento che ha un'altra funzione. Cioè, quindi, sì, il metodo è sbagliato. È sbagliato. Cioè, non è sbagliato il fine di dire rendiamo pubblici i redditi dei cittadini italiani. Perché qualcuno gli ha detto lo facciamo sul sito internet, c'era il conduttore Fabrizio Frizzi e Brunetta ha detto ma il sito internet non lo guarda nessuno, no facciamolo proprio, ha insistito nei titoli lì, così ma la gente. Allora, dicevo, perché è un doppio errore? Non solo perché è parziale, ma poi perché qui nel sottotitolo si dice non è giusto che Viale Mazzini ci siano figli e figliastri, contratti milionari e contrattini. Cioè, sì. Quindi lo dice anche, l'avete detto anche voi introducendo. Allora, non si deve prescindere dall'audience. Questo è un problema che riguarda l'azienda. Io voglio vedere quale direttore generale, visto che lui dice aver parlato con Masi, si può permettere di dire va bene, adesso facciamo un meccanismo in cui tutti prendono la stessa cifra. Cioè questo è base. Diciamo, lo giudichi lei, cioè, no. Perché come si fa a pensare nella società italiana, cioè io al di là del merito, dell'odio eccetera, voglio dire ci sono inevitabili differenziazioni, voglio dire è chiaro che la società dell'informazione si basa sulla competizione e quindi gli artisti, io mi ricordo il contratto milionario a suo tempo di Raffaella Carrà fece infuriare Craxi, che praticamente aveva problemi alla scala mobile, si scatenò e andò di mezzo a Zavoli. Ma lì è un problema, cioè come quando qualcuno dice non è giusto che un calciatore guadagni, cioè questo è una visione utopistica, ma voglio dire che ormai improponibile nella società di oggi. No, tra l'altro, allora, onorevole Zaccaria, la sta ascoltando, voglio salutarlo, Franco Bechis, buongiorno, vice direttore di Libero. Tra l'altro quella vicenda Bechis se la ricorderà benissimo, visto che la tirò fuori, credo la tirò fuori lei, no, dai direttori di Italia Oggi, quella vicenda che ha ricordato Zaccaria. Ne abbiamo parlato, tirato fuori, no? Di 740. Allora Bechis, io prima di chiedere il parere voglio far ascoltare alcune cose sempre di Brunetta, perché allora oggi Brunetta sulla stampa Maria Corbi dice anche due giorni fa era 1 mattina, prima di andare in onda si aggirava negli studi, chiedeva a chiunque gli capitasse a tiro lei quanto guadagna, lei quanto guadagna, lei quanto guadagna, questo da Maria Corbi. Ma diciamo l'ha fatto con varie persone, per esempio con vari giornalisti, sentiamo con Aldo Cazzullo, era Matrix, con Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, sentite. Quanto guadagni? Guarda, meno di un quarto Di quello che guadagna uno degli assistenti che no. sono dimmi stati messi quanto, in Parlamento. Dimmi quanto guadagni tu. Molto meno di un quarto. No, dimmelo, io ti dico il mio stipendio. Perché non mi dici molto tuo? Meno di un quarto. Dimmi il tuo stipendio. Molto no. meno di un quarto. Allora io ti di dico il mio. Io ti dico il mio. Dimmi il tuo quanto stipendio. Guadagno. Dimmi il tuo stipendio. Dimmi però solo adesso lo devi dire. Però. No, io dice. Meno no, di un quarto. Vedi, Cazzullo ha tenuto duro, non glielo dice. Alessio vince allora col conduttore. Quanto è il tuo contratto? Io guadagno in dollari, quindi guadagno quanto poco. Quanto è il tuo contratto in Mediaset? Non lo posso quanto dire. Quanto è il tuo contratto in Mediaset? Posso dirti una cifra? Sì. Secondo me è tre volte quanto guadagno io, minimo. Sono lei guadagna 200.000 euro. Un parlamentare italiano di indennità parlamentare sono 6.000 euro mensili. Tu, giornalista giovane e bravo, guadagni almeno, se hai fatto un buon contratto e te lo auguro, tra le 5 e le 10 volte un parlamentare italiano. Purtroppo no. Mi dici il tuo contratto? Guardi, dalla regina di Cordiglio, quanto guadagni? Allora, poi ce n'è anche un altro, Franco Bechis, che cos'è? È giusto, è legittimo? Qualcuno dice, beh, ma lo paghiamo noi il canone della RAI, quello è pubblico e dunque almeno quello bisognerebbe saperlo. Sì, è vero anche che la RAI non vive soltanto di canone, ha un fatturato certo. pubblicitario consistente. Io poi capisco la logica, cioè sono d'accordo sul fatto che gli stipendi debbano essere pubblici, di fatto quello che ricordava Zaccaria, cioè la pubblicità allora voluta, cercata da Visco sui 740, diciamo tutti online, e che noi pubblicammo appunto, sì, allora ero Italia Oggi, li pubblicammo tutti facendo le classifiche per settore, per città. Gli italiani non cercavano altro, a vedere il collega, l'amico, il nemico, quanto guadagnava. Comunque, sì, ma questo già era accaduto in passato. Faccio presente che comunque fu ritenuta eccessiva la pubblicità su internet di quei dati. Ma i dati sono pubblici, nel senso che chiunque, senza particolare esigenza, può andare all'agenzia delle entrate del proprio comune e chiedere e fare domanda, solo che diciamo lascia lì l'impronta facendo domanda. Per conoscere i redditi di qualcuno. Quindi i redditi sono pubblici di tutti. Quelli diciamo della pubblica amministrazione hanno una ragione in più di essere pubblici, quelli della RAI. Tante volte si è cercato di definire o di obbligare a rendere pubblico qualche cosa è pubblico, qualche cosa no, poi alla fine diciamo finiscono comunque sui giornali. Sì, c'è per esempio questo sito sulle consulenze della RAI che non si sa perché da due anni è in costruzione. Sì. Dovrebbero, per una famosa legge insomma del governo Prodi, credo, inserire tutte le consulenze e i contratti in costruzione da 2 anni e mezzo, non si sa perché. Sì, sì, anche io più volte sono andato a cercare, ho provato a chiedere, dicevano che entro poco avrebbero messo tutte le informazioni, né quelle informazioni non ci sono. Devo dire che facendo il giornalista ed essendomi occupato di RAI e vedendo anche sugli altri giornali, in realtà quello che chiede Brunetta è praticamente pubblico, perché il compenso dei conduttori, soprattutto dei principali conduttori, è noto, è strapubblicato sui giornali, sostanzialmente non è stato smentito né dall'azienda né dai conduttori, quindi dobbiamo ritenerlo buono. Quindi e la logica che lui dice, che ho anche capito quella, insomma, però non funziona mica tanto, perché diciamo, non è che il conduttore che ha meno ascolto, sono gli italiani che devono decidere, e l'ascolto è un modo con cui gli italiani decidono. Io so bene che, non so, a Brunetta non piace Santoro, ma Santoro fa un ascolto straordinario. Un po' la legge di mercato direbbe che, non solo la legge di mercato ma anche quella della democrazia, dice che Santoro va bene, insomma, va bene dagli italiani, o comunque quanto guadagna insomma e quanto poi rende all'azienda è un rapporto che vale. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. pubblicare nei titoli di coda i compensi di giornalisti e conduttori Rai, come vuole il ministro Brunetta. Oh, io lo devo ringraziare perché tra poco in onda, proprio alle 10, con Cominciamo Bene, e proprio ieri lì il ministro Brunetta è andato. Fabrizio Frizzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie davvero. Grazie. La liberiamo tra poco. Che vi ha fatto ieri Brunetta? Vi ha fatto prendere un coccolone in diretta? No, Brunetta ieri ci ha fatto un grande spot e di questo lo ringraziamo, perché la visibilità che ci ha dato in questa giornata è stata veramente incredibile. Ma a parte questo, sì, beh, alla fine ha tirato fuori questa curiosità, perché insomma è una cosa molto curiosa, a dire il vero, anche se sul criterio della trasparenza del merito io sono perfettamente d'accordo con lui, però credo che si possa trovare qualche sistema un po' meno pesante. Ma lei gliel'ha proposto, lei gli ha detto mettiamolo su internet, e Brunetta gli ha detto guardi che internet non lo guarda nessuno, nessuno. Però, è un po' però, troppo, sì, forse, però non c'è stato tempo di parlarne, ma poi lui adesso per l'anno prossimo sarà l'anno della firma certificata su internet, no? Cioè praticamente una mail varrà come una raccomandata con ricevuta, sì, di ritorno. Quindi o vale internet per tutto o non vale per nulla. Io credo che certe informazioni così delicate, se devono essere pubblicate, possano essere pubblicate in un contesto nel quale chi vuole se le va a trovare queste informazioni. Uno spettacolo televisivo verrebbe troppo appesantito da questo tipo di informazioni, sia in testa che in coda, a prescindere dai discorsi sulla privacy e dal fatto che non so quanto sia utile che i telespettatori vengano a sapere cosa guadagna Tizio, cosa guadagna Caio, perché in realtà la cosa importante è che lo sappia bene qualcuno che sia in grado poi di intervenire, cioè come si può dire, un garante, ecco, il garante deve sapere cosa guadagna Tizio, cosa guadagna Caio e se è giusto in relazione ai risultati che produce. Senta, pare che prima di 1 mattina Brunetta si aggirasse chiedendo a tutti lei quanto guadagna, lei dietro le qui, dietro la trasmissione. Ieri a Cominciamo Bene non è che con tutti i collaboratori prima di andare in onda chiedeva a tutti. Lo ha chiesto alla mia compagna di squadra, ai, che devo dire è stata molto brava e corretta, e gliel'ha detto. Io non gliel'avrei detto, anche perché ho un ruolo diverso, sono un libero professionista, non vado a fare le trattative col Kalashnikov e quindi non trovo giusto dover raccontare in diretta televisiva quali sono i risultati di 30 anni di carriera, lo trovo troppo, come dire, imbarazzante, quasi scortese, però insomma capisco la sua battaglia e quindi capisco la provocazione. Va bene, io la lascio davvero, grazie per questi pochi minuti, ma insomma alle 10 poi è in onda Cominciamo Bene, quindi la lascio ovviamente agli ultimi preparativi, la riunione. Grazie Fabrizio Frizzi. Onorevole Zaccaria, voglio tornare da lei. Qualcuno ci dice, beh, è vero come dice Bechis, non è solo il canone Rai che dà i proventi alla Rai, però Brunetta dice il principio è questo: l'azionista è anche pubblico e quindi lì bisogna sapere. Rispetto, magari lei ha fatto l'esempio del film Sharon Stone, l'attrice, dove è tutta una produzione privata. No, dunque, allora io ribadisco in sintesi: inidoneo assolutamente metterlo nei titoli di testa di coda che hanno un'altra funzione, quindi lo ripeto perché sia chiaro il concetto. Legalitarismo che è alla base di questa proposta lo trovo una stupidaggine, cioè nel senso che chiunque venga interpellato in un'azienda qualsiasi, del principio paghiamo tutti in maniera uguale per evitare discriminazioni per l'audience, dice una stupidaggine. Il discorso della RAI pubblica o privata non c'entra niente, perché la RAI è totalmente nel mercato. Se si vuole stabilire dei criteri di pubblicità delle retribuzioni di questo settore, deve essere per l'intero settore, quindi se no sarebbe anacronistico. La RAI si discute da anni se è pubblico o privato, la RAI ha un azionista pubblico ma vive con regole private. L'ultima cosa che vorrei dire è che, allora, io quando ero presidente della RAI inaugurai la tecnica di fare un comunicato stampa ogni qualvolta li ristabiliva il mio emolumento. Io facevo un comunicato stampa, se uno vuole andare a guardare li trova di quel periodo, perché dicevo, se io pubblicizzo il dato, sdrammatizzo la questione, è inutile che la gente cerchi di capire quanto guadagna il presidente della RAI, lo dico io, faccio un comunicato stampa e ogni volta che c'era un aumento io lo comunicavo via agenzie. Ecco. Allora, questo secondo me è un altro discorso, riguarda la trasparenza, quindi non egalitarismo, non titoli di coda, ma trasparenza. Se la vogliamo fare per dei settori merceologici, si può anche fare, ma dicevo usando poi lo strumento appropriato. Cominciassero magari quel sito lì benedetto delle consulenze RAI, www.consulenzerai.it, lo trovate, che è sempre in costruzione da 3 anni, cominciassero dalle piccole cose. Voglio chiudere Beppe Severgnini, anche a Beppe Severgnini gliel'ha chiesto, Brunetta, sentiamo, Beppe Severgnini gli ha risposto però. Io guadagno più di 200.000 euro l'anno, lei? Io sono più vecchio di lei, ne guadagno qualche decina di euro, di migliaia di euro in più. Però io ho 59 anni. No, aspetti, solo dal Corriere, poi c'è il resto. Lei allora, io ho solo lo stipendio di parlamentare e ho 2.300 euro di ministro. No, glielo dico con orgoglio, perché vengono dai libri, vengono dal mio lavoro. E io la stimo. Però la cosa non è... Mi scusi, mi dica il suo 740 finale. Accidenti. Perché da questo dipende anche la mia stima. Credo di essere... Allora, mi faccio ricordare, sono rimasto traumatizzato. Una cosa tipo 960 bravo, euro. Bravo, perché se li hai guadagnati. Sì. Ecco, bravo perché se li hai guadagnati. Dipende dalla sua stima, ma bravo perché se li hai guadagnati. Franco Bechis, ho 10 secondi. Come finirà sta vicenda? Allora, cioè, cos'è una cosa è che ne facciamo dei conduttori della radio, perché lì i titoli di coda sono un po' complicati. Lo so. Seconda poi cosa, io non sono in Rai, sto tranquillo. Non è vero che Brunetta guadagna 6.000 euro al mese. Allora cominciamo con la trasparenza, però per tutti davvero. I parlamentari hanno un'indennità, poi hanno circa 8.000 euro di rimborsi spese, sì. La diaria più il rimborso per le spese di attività del collegio. Di quelle spese non vi contano nulla, quindi qualcuno se li mette totalmente in tasca e diventa uno stipendio, qualcun altro invece effettivamente spende. La trasparenza non è che sia totale nemmeno da parte di Brunetta, perché io che cosa guadagni davvero Brunetta, cioè che cosa mette in tasca, perché non li deve dichiarare, non sono tassati, non lo so. Non lo sa. Quindi se vogliamo poi fare le cose radicali bisogna essere trasparenti davvero. E radicali nel tutto, va bene. Sono d'accordo che tutti gli stipendi debbano essere trasparenti, pubblici. Ma lo sono, i 740 sono consultabili tutti. Grazie a Franco Bechis, vice direttore di Libero, l'onorevole Roberto Zaccaria del Partito Democratico, e anche Fabrizio Frizzi, che davvero si è liberato per noi pochi minuti per essere con noi, grazie davvero. Ci fermiamo, Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Votate sul sito, allora, siete d'accordo con Brunetta oppure no? Per ora sì al 71%. A domani.